Se siete mai stati allo Stadio Olimpico di Torino per vedere la squadra dei Granata giocare in casa, avrete sicuramente sentito, prima della partita, suonare in sottofondo un brano punk rock italiano. Quel brano è Sulla collina dei Bull Brigade, la nona traccia del loro album d'esordio Strade smarrite. Strade smarrite è un album importante perché rappresenta uno spaccato realistico della Torino post-olimpica, le sue trasformazioni sociali, ed è diventato ben presto un caposaldo del panorama hardcore italiano. Soprattutto perché, con due EP all'attivo e i due album del 2016 Vita Libertà e del 2021 Il Fuoco Non Si È Spento, hanno dimostrato di saper rappresentare l'Italia dentro un panorama competitivo come quello dell'underground internazionale. Domani 7 aprile uscirà una versione acustica del brano Sulla collina. Eugenio Bora, il leader del gruppo, definisce questa nuova versione visionaria, una versione che si spinge oltre, quasi più vicina a una rebel song irlandese che a una vera e propria canzone da stadio. Nonostante sia nata con lo specifico intento di celebrare l'amore per il calcio, per la tifoseria e per i ricordi che si hanno legati allo stadio, si è sentita l'esigenza di portare il brano ad un livello più emotivo, calcando sui colori della voce e degli strumenti. Il successo che ha portato al gruppo la pubblicazione nel 2008 dell'album d'esordio Strade smarrite ha portato l'intera band a sentire l'esigenza di celebrare 15 anni di carriera discografica con una riedizione sia grafica che sonora dell'album e con un tour celebrativo in tutta Europa. Il tour partirà da Londra il 15 aprile, farà tappa a Berlino il 29 e poi rientrerà in Italia. Passerà per le maggiori città, Torino, la loro casa, poi Roma, Bologna e si concluderà a Milano il 26 maggio. Purtroppo la data di Bologna al Covo Club è già sold out. L'importanza sul territorio bolognese del gruppo è molto sentita, sicuramente grazie ai testi pregni di militanza canora e rabbia politica. Non temete, chi non è riuscito a prendere i biglietti per la data bolognese potrà recuperare, perché in tutte le altre città rimane ancora qualche posto disponibile. E tu a quale data verrai? Avrei voluto qui con me la mia sciarpa.